Dal 7 maggio troveremo ospitata a Palazzo d'Arcurzio la mostra La memoria del futuro, Mario Romù, un intellettuale a Bologna dal dopoguerra agli anni 90. E oggi siamo qua per parlarne con suo figlio e co-curatore della mostra, Michele Romù Fabi. Volevo chiederle innanzitutto se appunto potevamo avere un'introduzione alla figura di suo padre, magari per chi non la conosce. Allora, papà è stato un intellettuale a 360 gradi, un intellettuale, come ha detto giustamente Roberto Grandi, come oggi è impossibile essere, un intellettuale che spaziava dalla poesia alla traduzione latina, che era il suo grande amore, alla critica d'arte, perché ha cominciato come critico d'arte, alla musica, adorava la musica, e abbiamo trovato degli spartiti con delle composizioni inedite che forse riusciremo a far eseguire a settembre. E per lui arte era tutto, era un vestito, era un'automobile, amava moltissimo le automobili veloci soprattutto. Per lui, che era un attento a ogni piccolo dettaglio, perché era un uomo estremamente pignolo, estremamente preciso. Quando io andavo di nascosto nel suo studio a cercare, qualche cosa della musica da registrare o un libro, ci andavo ovviamente quando lui non c'era, e quando tornava lui puntualmente si accorgeva del mio passaggio. Quindi papà era un uomo pignolissimo, però era un uomo che spaziava in tantissimi ambiti. Parlava di poesia con i poeti, parlava di arte con gli artisti, di traduzione con i latinisti e così via. Ha scoperto tardi l'insegnamento. Concetto Pozzati lo portò a Urbino, quando Concetto era direttore all'Accademia Urbino, lo portò a Urbino e lì ha scoperto il piacere dell'insegnamento. Ho conosciuto alcuni suoi allievi che lo adoravano. Uno di questi, qualche anno fa, quando abbiamo pubblicato il libro Tutte le poesie con Pendragon, che appunto raccoglie tutto il lavoro poetico nel 2017, l'abbiamo fatto, adesso è stato riedito il libro in occasione della mostra. Uno di questi ha scritto su una rivista che si chiama Amedit, una recensione al libro, e dopo narra di papà insegnante, ed è meraviglioso. Invito tutti a cercare quel pezzo e a leggerlo. Io quando lo leggo, qualche amico ogni tanto mi chiede di leggerlo ad alta voce e mi metto a piangere. Poi io sono molto emotivo e quindi... Comunque papà, devo dire, ha avuto la grande fortuna di incontrare mia madre, perché mamma è stata quella che gli ha permesso di concentrarsi sul suo lavoro. Quindi papà non doveva pensare a nulla che non fosse scrivere, confrontarsi con gli altri, perché tutto il resto, mia madre, che aveva comunque una vita molto piena, però nonostante questo lei gliel'aveva risolto. Beh, sicuramente suo padre è stata una figura molto eclettica e poliedrica, quindi volevo chiederle appunto come sarà restituita questa figura così in qualche modo anche complessa all'interno della mostra e se ci si andrà a concentrare su un aspetto particolare della vita di suo padre. No, nella mostra non c'è un aspetto particolare e inizialmente io ho cercato anche, volevo trovare un filo conduttore che fosse temporale o logico. Ho rinunciato perché era impossibile. Cioè, per poter avere un filo temporale unico sarebbero serviti degli spazi immensi. E idem per se volevo suddividere in poesia, critica d'arte, eccetera. Perché tutte queste cose si andavano a mescolare. Allora, ho preferito tenere tutto quanto un po', diciamo, in maniera anche, se vogliamo, un po' confusa. Quindi troviamo insieme un libro degli anni 50 con una lettera degli anni 80. Questa mostra è un po' come venire a casa mia e aprire dei cassetti, che è quello che ho fatto io in fondo. In fondo io tutto sommato questo ho fatto, ho aperto dei cassetti di casa, ho aperto dei cassetti a casa Carducci andando a rovistare fra tutti i manoscritti che sono lì conservati, e così sono riuscito a trovare gli elementi da mettere insieme. Il visitatore dovrà avere la pazienza e la voglia di mettere insieme queste cose. È molto, secondo me, molto importante che il visitatore acquisti il catalogo, perché nel catalogo si riesce a ricostruire un po' tutto questo. Va bene, Michele, grazie mille per averci parlato di questa figura appunto così interessante. Grazie a voi.